Italia in controluce. Seconda edizione di Italia in controluce, l'approfondimento di Radio 24 quotidiano sulla cronaca italiana, ma anche sulla politica locale, sui casi di nera e giudiziaria, quelli nuovi ma anche quelli vecchi, le curiosità, il costume, lo spettacolo e la cultura. Buongiorno da Daniele Biacchessi. E proprio per ricordare un fatto del passato, il 5 gennaio 1984 veniva assassinato a Catania il giornalista antimafia Giuseppe Fava, scrittore, drammaturgo, apprezzato reporter, direttore dei Siciliani. I reportaggi Sabrina Pisu. Io vorrei che gli italiani sapessero che non è vero che i siciliani sono mafiosi. I siciliani lottano da 30 secoli contro la mafia. Tutti gli uomini che sono caduti negli ultimi 3 o 4 anni sono tutti siciliani. Gli eroi della lotta contro la mafia sono tutti siciliani. Giuseppe Fava era un siciliano, Pippo per gli amici e i familiari. Queste parole le pronuncia una settimana prima di essere ammazzato dalla mafia. Era il 28 dicembre del 1983 quando Enzo Biagi lo invita nella sua trasmissione Film Story. I mafiosi sono in ben altri luoghi e in ben altre assemblee. I mafiosi stanno in Parlamento, i mafiosi a volte sono ministri, i mafiosi sono banchieri. È un problema che rischia di portare alla rovina, al decadimento culturale definitivo d'Italia. La sera del 5 gennaio, 7 giorni dopo, 5 proiettili lo mettono a tacere. Aveva appena lasciato la redazione del suo giornale, I Siciliani. L'ultimo ad averlo visto è un collega, Michele Gambino. Quella sera ci eravamo fermati fino ad abbastanza tardi a lavorare. Stavamo uscendo insieme, poi ci fermammo a parlare per 15-20 minuti sull'inchiesta che io e il figlio del direttore Claudio stavamo facendo su mafie e banche. Ci salutammo, uscimmo tutti e due, lui andò verso il teatro, io verso casa mia. Quella sera, con la sua Renault 5, Fava doveva andare a prendere sua nipote, che recitava al Teatro Verga di Catania, dove non arrivò mai. Ero arrivato a casa, stavo cenando, nello stesso istante mi arrivò una telefonata di una collega, Elena Brancati, e nel momento in cui lei me lo diceva, vidi una scritta in sua impressione sulla TV, che era una TV locale, che diceva assassinato Giuseppe Fava. Ho pensato quello che poi abbiamo continuato a pensare per 25 anni dopo, che i potenti di Catania, a cui avevamo dato fastidio con le nostre inchieste, i nostri servizi, e avevano fatto pagare il prezzo che secondo loro ci meritavamo. Fava parlava di mafia in una Catania in cui se ne negava persino l'esistenza. Nel 1976, sulle colonne dell'Espresso Sera, parlava della sua città, dissanguata dalla corruzione, paralizzata dall'incapacità politica. Nel 1980 è alla guida del Giornale del Sud. Quando 4 anni dopo è costretto ad andarsene, non si dà per vinto e fonda una cooperativa pubblica, I Siciliani. Quello che accade nel meridione in Sicilia, scrive Fava, il bene e il male, la paura e il dolore, la povertà, la violenza, la bellezza e la cultura, la speranza e i sogni appartiene a tutta la nazione. Quella del 6 gennaio del 1984 fu un'alba di dolore, ma anche di orgoglio. È stata un'alba senza sonno, perché ci riunimmo a casa di uno di noi, tutti stravolti, sconcertati, perché in realtà non ce l'aspettavamo. Fu un'alba di dolore, ma anche di orgoglio. Decidemmo subito che non saremmo scappati. L'inchiesta che ha sancito la sua condanna a morte si intitola I quattro cavalieri dell'apocalisse mafiosa, nel primo numero del giornale. 20 pagine che gettano la luce sui quattro cavalieri del lavoro catanesi: Carmelo Costanzo, Gaetano Graci, Francesco Finocchiaro e Mario Rendo, che Fava collega con il clan del boss Nitto Santa Paola, che è il protettore dei cavalieri, il capo indiscusso di Cosa Nostra catanese. Il processo si è concluso nel 2003 con la condanna definitiva di Nitto Santa Paola, Aldo Ercolano e il pentito Maurizio Avola. Ma c'è una domanda che ancora oggi resta senza una risposta: chi ha voluto, oltre il capomafia catanese, la sua morte? Secondo noi i mandanti non sono stati condannati, è stato condannato l'organizzatore Nitto Santa Paola, che è l'uomo che ha materialmente organizzato il delitto. Noi siamo convinti, siamo sempre stati convinti, che i mandanti fossero, diciamo, a un livello più alto, fossero alcuni noti e, diciamo, identificabili imprenditori catanesi, che erano le persone più danneggiate dalle nostre inchieste. In quel tempo non si poteva considerare quel delitto come un delitto di mafia, dice il figlio Claudio Fava. L'inchiesta fu avvocata al procuratore della Repubblica di Catania e poi si scoprì che era un uomo sulla libropaga di Nitto Santa Paola. Referenti dell'imprenditoria siciliana, alcuni signori poi processati e condannati per associazione mafiosa. Cioè il senso dell'impunità in quei tempi era tale che non permetteva che si potesse indagare sulla morte di Giuseppe Fava considerandolo un diritto di mafia. Se oggi si parla ancora di Fava e se si è ottenuta una parziale verità giudiziaria, se una lezione di giornalismo da allora ad oggi è arrivata intatta, lo si deve anche al modo in cui questa memoria è stata un patrimonio collettivo di tanti. Se è ancora viva la memoria di Giuseppe Fava, lo si deve anche e soprattutto a giornalisti come Riccardo Orioles, che con Fava ha fondato e poi sostenuto il mensile Siciliani, che restò in vita fino all'86, poi l'esperienza dei Siciliani Nuovi dal 93 al 96, sempre senza ricevere fondi e senza pubblicità. In ricordo di Pippo, che dice Orioles, era solo un giornalista, faceva il suo lavoro. Era un giornalista. I giornalisti non sono più o meno coraggiosi, i giornalisti sono giornalisti. La cosa che avrebbe ricordata di Giuseppe Fava non è tanto che lui è morto in servizio, quanto che lui si è venduto la casa per finanziare il giornale. Io ho lavorato quasi sempre gratis, no? E voglio dire, sono un giornalista professionista, regolarmente iscritto all'ordine, però non ho pensione, ho preso l'ultimo stipendio nel 96. Quelli che hanno seguito questa strada in Sicilia, più o meno sono così, ma non ci lamentiamo. Io ho un concetto etico di giornalismo, scrive Fava, un giornalismo fatto di verità. Un giornalista incapace per vigliaccheria o per calcolo della verità si porta sulla coscienza tutti i dolori che avrebbe potuto evitare, le sofferenze, le sopraffazioni, le corruzioni, le violenze che non è stato capace di combattere. Italia in controluce. Il 2011 sarà l'anno elettorale in molte città italiane, Milano, Torino, Bologna, Napoli. Oggi siamo a Bologna. Paolo Piacenza ha intervistato Guido Fanti, figura carismatica del potere politico emiliano, già sindaco di Bologna, già presidente della regione Emilia-Romagna. Siamo in una situazione, secondo me, molto grave e anche pericolosa. Non dico tanto per la parte di sinistra, ma in generale per quello che sta significando la vita della città di Bologna. Si è sbagliato fin dall'inizio dell'apertura della crisi, con tutto quello che è successo con l'ex sindaco Del Bono, perché immediatamente si è aperto un discorso che si riferiva unicamente ai nomi. Ed è stata una battaglia che io ho cercato di condurre fin dall'inizio, dicendo che quello non è il problema di Bologna. Il problema di Bologna è il suo futuro e quindi i contenuti che bisogna dare a un programma ben preciso e rispondente alle esigenze di questa situazione. Quali sono invece le questioni che andrebbero affrontate? Bisogna tenere conto anzitutto che la storia di Bologna si identifica molto con la storia della sua amministrazione pubblica. Il riconoscimento che è stato unanime nei confronti della storia di Bologna, mi pare sia da destra che da sinistra, era quella di una capacità amministrativa di dare una soluzione di direzione amministrativa che incidesse sulla vita complessiva della città. Il problema è di individuare i progetti necessari alla nostra città. Io ho individuati 5 di questi progetti, che sono quelli sostanziali su cui non si può sgarare, non si può far finta di niente. Uno è quello dell'attività istituzionale legata alla creazione della città metropolitana. Un secondo problema è quello dell'ambiente e quindi della necessità di avviare un procedimento, un processo di risanamento ambientale, ma ancora di più il terzo punto, i problemi del lavoro. Il problema cioè della necessità che è urgente di affrontare un'organizzazione e un'attività che sorregga una realtà che sta affrontando momenti di crisi molto profonde. E ci sono delle industrie, Datalogic, la IMA, la Seragnoli, cioè delle industrie che hanno retto e reggono alla aggressione della crisi economica, ma che debbono essere aiutate in questo sforzo. Questo vale anche per le cooperative, questo vale anche per le piccole e medie aziende. Quarto e quinto punto, quali sono? Uno è quello della cultura. Bologna è una città di cultura, inutile che faccia tutta la storia, ma adesso c'è bisogno di un rilancio, di una riqualificazione. L'occasione era la proposta di creare a Bologna un auditorium di grande portata e di grande significato, e lo stesso Abbado aveva invitato Piano a partecipare a questa elaborazione. Ora, la cosa incredibile è che tutto questo è nato, sorto e durato lo spazio di un mattino, come si dice. L'altro punto è quello del welfare, cioè tutta la politica fatta è inventata dal Comune di Bologna. Basti pensare all'asili nido, le scuole materne, è oggi messo a rischio, sei comunque colpito dalla mancanza di fondi per questa condizione innaturale che è stata determinata dalla politica governativa nei confronti dei comuni e delle istanze comunali. Ecco, questo è un altro capitolo molto importante per Bologna. Se lei chiama questi, tutti i componenti, i vari proposti o proponibili da parte delle forze politiche, non troverà mai delle cose specifiche. Ecco, allora di chi è la responsabilità di questa situazione? Ma la responsabilità ovviamente è dell'insieme delle forze politiche, delle varie forze politiche che non sono riusciti ad affrontare, ad aggredire le questioni che si sorgevano e si proponevano. Per cui c'è stato un decadimento della vita sociale, della vita comunale. Pensi solamente ai consigli di quartiere, che hanno significato per anni il modo con il quale la partecipazione generale dei cittadini all'attività pubblica era assicurata. Oggi è svanita, non ci sono più i consigli di quartiere, c'è tutta una condizione di crisi, un distacco che si è creato nella realtà sociale e della realtà cittadina, insomma. Secondo lei Bologna è la città in cui si sta giocando il futuro del centrosinistra o della sinistra? Mi auguro di no, cioè Bologna può dare un contributo che adesso non è in grado di dare, mi auguro che lo possa dare. La seconda edizione di Italia in Controluce termina qui. Vi ricordo radio24.it, il nostro sito dove trovate il blog di questo programma, Radio 24 Italia in Controluce su Facebook, in Controluce su Twitter, e la mail controluce@radio24.it. Questo è il modo per comunicare con noi, per segnalarci fatti dalle vostre città, dai vostri paesi, per raccontarci anche quello che accade, quello che vorreste che Italia in Controluce si occupi. La mia voce torna domani alle 6:30 su Radio 24.